musica che provenisse dal Cocorico di quel periodo degli anni 90, sia perché era, come quella per i DJ, una narrazione abbastanza abitata e frequentata già, e ci interessava invece raccontare altro, e sia perché abbiamo, insomma, trovato più interessante, come dire, aggiornare quell'attitudine e quelle sonorità attraverso l'operazione di un artista giovane che peraltro veniva dal punk, quindi insomma ha fatto un percorso anche molto interessante. Ah, fantastico. No, anche perché in effetti anche poi, ma mi avete detto offline che non eravate dei fruitori del Cocorico, e io nemmeno, per cui non so di che cosa staremo parlando stasera, ma va benissimo così, anche perché non credo che tanti ascoltatori di Radio Città Fujiko in realtà fossero fruitori del Cocorico, ma magari mi sbaglio, perché devo dire che appunto io negli anni 90 non c'ero, per cui, e non ascoltavo appunto Radio Città 103, per cui chi lo sa. Ma come è nata l'idea di fare, adesso scusate gli aerei, ma questi ci accompagneranno per tutta la trasmissione, anzi alziamo la musica così lo sentiamo meglio, no, perché con sto caldo si fa fatica a chiudere le finestre, per cui preferisco gli aerei e non morire di caldo. Dicevo, come vi è venuta l'idea di fare un documentario sul Cocorico? Ma poi semplicemente è stato qualche settimana prima dell'inizio del Covid, mm-hmm. È venuto da noi Francesco Tavella, che è il regista del film, proponendoci questa cosa. Noi come produzione, io poi ancora Matteo Lolletti con la sua produzione non era ancora all'interno del progetto, però fondamentalmente io invece con il mio socio mi sono detto, questo ci ha presentato una serie di cassetti di girati dell'epoca, mm-hmm. proponendoci di fare un documentario sul Cocorico partendo dal materiale di repertorio. Sì. Noi ci siamo guardati e ho detto, ma questa roba qua, anche se fa cagare, è bellissima, perché c'è del materiale meraviglioso che non era possibile tenerlo lì, cioè, era inevitabile farci qualcosa. Certo. No, sono d'accordo. Avendone visto una metà, devo dire che sono assolutamente d'accordo. Sì, ma no, perché le immagini sono potenti già di loro, nel senso, certo. Infatti è stato un film fondamentalmente di montaggio. Prendi il materiale, vedi cosa ci puoi fare, un po' alla volta ci crei una storia sopra. Certo. Perché non venivano fuori proprio dei mondi, delle cose che poi appunto noi, non essendo fruitori, ma in Matteo, abbiamo scoperto delle cose che veramente non ci immaginavamo di questo luogo. Cioè, io l'ho sempre visto come il posto degli sfattoni e non ci sono mai voluto entrare proprio per quello. In realtà mi son dovuto ricredere, anzi, mi è dispiaciuto non esserci mai stato, perché veramente c'era un'energia incredibile e che spero venga fuori all'interno del film. Che viene fuori assolutamente, anzi, fra l'altro appunto ho visto l'ultima mezz'ora al Modernissimo e c'è stata quasi una standing ovation alla fine. Evidentemente molti di quelli che erano al cinema avevano fruito del Cocorico in passato, per cui c'erano appunto alcuni signori di una certa età decisamente nostalgici, ma era anche pieno di giovani che appunto si chiedevano dove fosse andata tutta quella cultura, probabilmente. Esatto. Perché in effetti andare in discoteca adesso è andare in discoteca, mentre invece in quegli anni sembra che fosse qualcosa di diverso. Adesso non ho ben capito cosa, però sicuramente c'erano performer a livello artistico alto e anche poi DJ appunto che facevano, certo, un certo tipo di musica e un certo tipo di valenza che magari appunto poteva dare uno stimolo ulteriore a chi andava lì a ballare. Sì, no? Sì. Ma infatti quello che fa il film è proprio questo, nel senso, chi c'è stato in qualche modo si rivive un'ora di quel locale, chi non c'è mai stato invece rimane veramente abbagliato da questa cosa, perché è una cosa che non si aspetta e veramente sì, ti chiedi proprio, ma adesso tutta questa cosa qui dov'è? Non c'è più. E secondo me è la parte migliore del film, proprio quello che lascia questa domanda un po' aleatoria in aria, e in cui ti dici, ma ora dov'è tutto questo mondo? Dov'è finito? Ma voi avete lavorato fianco a fianco con gli organizzatori del Cocorico di quegli anni oppure no? Cioè, raccontatemi un po' come è nato, cioè come avete fatto questo documentario, perché comunque appunto c'erano un po' di personaggi che abbiamo visto giovani nel footage e poi rivediamo un 30 anni dopo raccontare alcune di queste aneddoti particolari, di momenti particolari, molto artistici tutto questo, devo dire. Sì, noi avevamo queste centinaia di ore di girato di archivio che ci siamo visti e rivisti più volte per riuscire, perché sai, quando lavori con l'archivio fai un'operazione estremamente interessante, secondo me molto particolare, cioè tu prendi qualcosa che ha già un suo senso e nel momento in cui lo strutturi e lo ristrutturi in una narrazione ci costruisci un senso terzo sopra, no? Tanto che addirittura il nostro stesso prodotto è diventato materiale d'archivio a questo punto, e quindi cioè non è semplicemente giustapporre due immagini che vengono dagli anni 90, è proprio costruirci sopra un altro e un nuovo senso per poterlo fare in maniera più comprensibile possibile, e perché ci fosse comunque una dorsale narrativa ci siamo appoggiati a quelli che facevano il Cocorico ai tempi, e in particolare a una persona che erano almeno 30 anni che non parlava, cioè il direttore artistico storico di quegli anni lì. Mm-hmm. Tanto il film si apre con la caduta del muro di Berlino e si chiude, certo, con le Torri Gemelle, perché volevamo raccontare, mm-hmm, diciamo, più che un biografico di una discoteca, voleva essere il ritratto di una generazione da giovani. Certo, in effetti gli anni 90, diciamo che nascono nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e muoiono l'11 settembre 2001, esatto, con la caduta, un'altra caduta, quella delle Torri Gemelle. Sì, sì, il decennio lungo del secolo breve, insomma. Gli anni, infatti, 90. Assolutamente. E quindi ci siamo appoggiati a queste figure, in particolare, dicevo, Loris Riccardi, che era il direttore artistico, il quale, insomma, come dei Virgilio o dei Caronte nel momento in cui abbiamo attraversato i primi fiumi dell'inferno, ci hanno condotto e portato e fatto scoprire, come diceva Luca prima, qualcosa che in realtà non ci aspettavamo di scoprire. Cioè io, come ti dicevo prima, io andavo al livello 57, in quegli anni andavo al Velvet, andavo al Vidia, e al Cocorico ci sono andato, ma non ero un frequentatore, mm-hmm, abituale. Però scoprire che in realtà in un posto che era stragonfio, stracolmo di pregiudizi da parte di chi non ci andava, no? Perché ci andavano quelli che calavano e che ascoltavano la musica Tunes, che poi ci andavano anche quelli, ovviamente. Certo. Sì. Però scoprire che in realtà dentro si muoveva in maniera neanche sotterranea, ma esibita ed esplicita, un sommovimento culturale, se vuoi anche politico per molti aspetti, è stata veramente un'epifania, è stata una scoperta. E come dice Loris Riccardi, appunto il direttore artistico, dice: il Cocorico non era una discoteca, noi non l'abbiamo mai pensata come una discoteca. E D'Agostino diceva: insomma, non chiamatela discoteca, perché il Cocorico è una discoteca come la sedia elettrica è una sedia. Ed è questo che abbiamo scoperto, e sono questi gli elementi, anche insomma i pregiudizi che in un qualche modo abbiamo voluto scalfire, le cose che abbiamo voluto raccontare. Cioè dentro ci passava veramente una rivoluzione culturale, era luogo di sperimentazione ed era anche luogo di libertà, è stato uno dei primi luoghi in cui la comunità LGBT, che allora era solo la LGBT, mm-hmm, si è sentita accolta e libera di esprimersi per, cioè, nei modi che riteneva opportuni. E tantissime persone, anche nelle interviste che abbiamo ritrovato negli archivi, ma anche persone con cui abbiamo parlato in questi anni, ci dicevano: io lì era l'unico posto in cui riuscivo a essere me stesso, riuscivo a esprimermi e a trovare una forma di serenità e di relazione con gli altri. E ti dirò, rispetto ad alcuni dei luoghi che ho frequentato, che magari erano anche più politicizzati, mm-hmm, c'era un tipo di libertà che era anche più elevata effetti non mi meraviglia, perché poi alcuni luoghi politicizzati erano abbastanza, a livello sessuale, diciamo, sicuramente molto più tradizionali. No, sì, no. Sì, sì. Su questo non ho dubbi. Mi chiedo se Marco Roma, colui che tutti i giorni ci manda un vocale cantato a Radio Città Fuggico, sia mai stato al Cocorico. Se ci sta ascoltando, magari ci puoi rispondere cantando. Intanto sentiamo il vocale di oggi. Buongiorno, ascoltami se vuoi, solo per un pochino, dammi solo 10 secondi per farti capire quanto la poesia è importante per tutti voi, per me, per sempre. Da Marco Roma, buongiorno. buongiorno a te. Tra l'altro mi sono accorto che presumo che sia il mio ventilatore che fa tutto sto casino di fondo. Adesso provo a spegnerlo, vediamo se cambia qualcosa. No, è il vostro ventilatore. No, è il vostro. Vabbè, allora va bene, lo lasciamo, perché sennò morite. E va benissimo così. Comunque ringraziamo Marco Roma, appunto, che oggi l'ha mandato abbastanza presto stamattina questo vocale, per cui prossima volta magari prendi prima il caffè di mandare di mandare il vocale. Dove eravamo rimasti? Siamo qui con Matteo Lolletti e Luca Nervegna. Cosa avete fatto esattamente? Matteo, hai co-sceneggiato tutto quanto, sì. Perché la regia è di Francesco Tavella. Perché non c'è Francesco Tavella? Era impegnato? Non gliene frega niente? Ma no, Francesco non l'avete chiamato? Non sappiamo. Abbiamo fatto una domanda inopportuna. Comunque ringraziamo Graziana che invece vi ha mandato qui. E anzi, ringraziamo anche Francesco Finotti che mi ha dato lo stimolo dicendo assolutamente che vi dovevo chiamare. E in effetti anche solo per la musica ci sta. Qua. Questa è Hibernation, sempre di Matteo Valicelli, che ha composto tutto l'album. Lo trovate anche su YouTube, tra l'altro, che è dove l'ho trovato io per poterlo sentire qui. E invece Luca, hai fatto la fotografia, giusto? Sì. E anche il montaggio. E una parte di montaggio. Una parte di montaggio. Sì. No, perché in effetti ci sono dei pezzi di footage notevolissimi. No, quanto girato vi siete dovuti cuccare, immagino? Tantissimo. Tanto VHS. Sì, tanto. Tra l'altro siamo stati, tra virgolette, forse un po' aiutati da quello che è stato il Covid, perché in realtà ci ha dato questi 3 anni di vuoto, in cui noi abbiamo cercato materiale in giro, e nell'arco di 3 anni, ma in realtà anche durante il montaggio, continuava ad arrivare cose, perché gente scopriva che stava succedendo sta roba e ci mandava cose. Wow. E quindi abbiamo fatto un lavoro veramente immane di prima di ricerca e poi di studio del materiale, perché è stato, perché poi anche capire chi era dove, quando, chi, eccetera. Sì, cioè, sì. Deve poi essere stato contattare le varie televisioni dell'epoca locali, che facevano qualche intervista, Giacomo Benini, che ha fatto un po' la ricerca, che ha trovato delle cose. E poi, perché quello che ha parlato Francesco all'inizio erano 10 cassette, ma poi nel frattempo ci siamo accorti che ce n'era una marea di materiale enorme ancora da ricercare, e che abbiamo per fortuna trovato. Però appunto, fondamentalmente, come dicevo prima, è stato un lavoro proprio fondamentale di montaggio, perché era quello. E poi a un certo punto ci siamo resi conto che probabilmente sarebbero serviti qualche intervista per riuscire a dare appunto una sorta di ossatura. In effetti le interviste all'interno del film aiutano tanto proprio a capire anche che cosa succedeva, perché in effetti poi era anche così, cioè i fruitori del Cocoricò andavano in una serata senza sapere che cosa li aspettava, anche perché i flyer erano veramente abbastanza molto artistici e molto poco comunicativi, nel senso che magari c'era il titolo della serata, ma nessuno sapeva che ci sarebbero state installazioni, performance, eccetera, eccetera. Devo dire che il documentario assolutamente è da vedere, soprattutto per chi è interessato a quello che erano gli anni 90, perché a parte quello che succedeva dentro al Cocoricò, si capisce tantissimo anche di quello che succedeva fuori poi. Noi questo era un altro elemento molto importante, quello di continuare a dialogare, come faceva il Cocoricò peraltro, con l'attualità di quegli anni, cioè la guerra nell'ex Jugoslavia, il reale che stava attorno al Cocoricò in un qualche modo percolava dentro alla discoteca, e quindi che fosse appunto la guerra in Jugoslavia, che fossero i vaccini, che fosse una particolare stagione di misticismo che in quegli anni peraltro in diversi, insomma, si trovavano a praticare, ecco, erano tutte cose che tornavano dentro con le performance, con gli allestimenti, con gli artisti che venivano che venivano chiamati. E quindi abbiamo voluto fare la stessa cosa, almeno in parte, cioè continuare a mantenere il dialogo con quegli anni. Allora, quegli anni sono stati anni straordinari, è chiaro che credo che chiunque lo dica dei propri vent'anni, io avevo vent'anni negli anni 90, però sono stati anni molto particolari da molti punti di vista, no? come dicevamo anche prima. E quindi riuscire a raccontarne, ovviamente attraverso delle suggestioni, almeno una parte del fermento delle pulsioni che animavano che hanno animato quel decennio, era per noi fondamentale, sia perché riverberava nel Cocorico, sia perché, appunto, come dicevo, era un periodo storico ben preciso quello che volevamo raccontare. E dentro al Cocorico si agitavano queste pulsioni, si agitavano gli anni 90, si stipavano sotto la piramide, così come in realtà ovviamente facevano lo stesso in altri luoghi, però diciamo che il Cocorico era una sintesi particolarmente riuscita e suggestiva di quelle pulsioni e di quelle tensioni, più o meno consapevoli, più o meno inconsapevoli. Cioè, quello che a loro interessava era percuotere la mente, era mandare a fanculo la quiete. E per cui magari tu arrivavi nel locale, non sapevi chi era Yuko Mishima, però ti ritrovavi una lode a Mishima e a Mayakovsky, ecco, per citare Giovanni Lindo Ferretti parlandone da vivo. Certo, perché poi appunto c'erano queste serate a tema, ma chi le pensava queste serate? Era sempre... Era Loris Riccardi. È sempre lui, infatti. Era Loris Riccardi che si confrontava poi con parte del suo staff, con Renzo Palmieri e con altri, che in un qualche modo cercavano di contenere anche parte dei suoi deliri, perché era... Immagino, infatti. Era parecchio vulcanico e difficile da contenere, soprattutto Renzo, che era il direttore di sala, cercava di mantenere un minimo. Però vedi, prima tu dicevi e dicevamo che cos'è rimasto, cosa di quegli anni. Beh, cioè alcune delle cose che venivano fatte al Cocco, sia a livello di performance ma anche di allestimenti, oggi da un lato non sarebbero proprio possibili, nel senso che capitava di avere performer con i maiali al guinzaglio, cioè o cose o pareti che poi si sarebbero infrante. E non sarebbe più logisticamente possibile in una discoteca oggi. D'altro lato, secondo me, non sarebbe neanche del tutto sensato riproporre quel tipo di, certo, di idee, di pulsioni. Cioè, mm-hmm, bisognerebbe riuscire adesso non mi voglio avventurare in discorsi banalmente sociologici, però bisognerebbe riuscire a ricreare le condizioni per poter permettere un'espressione. Mm-hmm. Ma io sono convinto che in realtà posti del genere esistano di nuovo, semplicemente noi che siamo dei vecchi non li conosciamo, capito? Però certo, sono sicuro che ci siano posti altrettanto interessanti. Allora, io me lo auguro, ma noi abbiamo, allora, non abbiamo voluto fare un prodotto nostalgico, no? Come dicevo, sì, non è un biografico, sì, ovviamente c'è un elemento di nostalgia sana di quella parte, però non è nostalgico quello che abbiamo voluto fare. E moltissimi giovani vengono e quando escono dal film, perché ci capita poi di parlare, certo, ci capita di quello che ci chiedono è: ma perché non c'è più? Perché non c'è più qualcosa di questo tipo qui? È una domanda che ci fanno regolarmente. Sì, sì. E voi cosa rispondete a questa domanda? Dipende. Cioè, in effetti la risposta è politica, no? Sì, perché assolutamente. Perché adesso va quello che macina soldi e dunque non importa più fare cultura, perché l'importante è appunto fare incasso. E per fare incasso non c'è bisogno di altrettanta cultura, no? Contiamo che in realtà il Cocorico all'epoca macinava soldi. Sì, forte, certo. Nel senso, no, certo. Però certo, probabilmente, anzi, senza probabilmente, molto di quello che veniva incassato veniva poi reinvestito in quello, per fare cose che magari altre discoteche non facevano, proprio per mantenere l'incasso. Esatto, esattamente. Esatto, sì. Che è esattamente il motivo per cui presumo che adesso non ci siano cose del genere, perché alla fine l'incasso è sempre più risicato e dunque c'è anche meno possibilità di investimento in cultura, che poi secondo me, vabbè, adesso poi è un dibattito che potremmo partire partire e parlare di questo, però credo che sia veramente un problema molto culturale del nostro momento storico, no? quello di non averne mai abbastanza di incassi, e chi guadagna guadagna sempre di più e chi non guadagna guadagna sempre meno, perché sicuramente, per esempio, cioè, sarebbe interessante anche andare a intervistare un bouncer di una discoteca di oggi e sentire quanto guadagna allora rispetto a quanto guadagnava uno del Cocorico 30 anni fa, e scopriremo, certo, che lo stipendio è esattamente uguale, con la differenza che i prezzi sono aumentati di 30 anni, no? Esatto, è vero. Sì. Il Cocorico era un dispositivo culturale che in parte era fatto anche dalle persone che ci andavano, questo ce l'hanno detto tutti. Ecco, io credo che una grande differenza, se me la passate, che da questo punto di vista, è che in quel periodo, in quegli anni, noi ci autorizzavamo a pensare che fosse possibile costruire altro dall'esistente. Oggi è molto più complesso, secondo me, riuscire a pensare, cioè, insomma, l'adagio è sempre quello, no? È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. E da questo punto di vista credo che sia più complesso per le generazioni più giovani autorizzarsi a pensare l'altro, l'alterità, come se l'esistente fosse immutabile. Ai tempi pensavamo invece che avremmo incendiato e cambiato, certo, il mondo. Assolutamente, infatti poi la mazzata ce l'hanno data soprattutto a Genova nel, esatto, 2001, che appunto poco prima delle Torri Gemelle, diciamo che ha tentato di chiudere gli anni 90 in maniera abbastanza drastica. Vero. Detto questo, 333 180 94 94, se volete fare domande a Matteo e a Luca o parlare del Cocorico, lasciare un vocale su WhatsApp sulla vostra esperienza del Cocorico, siete benvenuti. Abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione, ma adesso ci dobbiamo fermare un secondo per le pubblicità delle 20:30. Coxo spaziale. Ed eccoci tornati. E no, in realtà volevo far sentire un pezzo intero, per cui tipo November 1989, secondo me è da suonare come si deve, perché è il mio preferito di questi, per cui ascoltiamoci di Matteo Valicelli, appunto, November 1989. gran pezzo questo. Siete a Coxo Spaziale, stiamo parlando di Cocorico Tapes, questo fantastico documentario sulla storia del Cocorico, anzi sugli anni 90 del Cocorico, che appunto comincia con le picconate al muro di Berlino, seguendo questo November 1989 di Matteo Valicelli. E dicevamo che il Cocorico esiste ancora e che avete proiettato il documentario all'interno del Cocorico. Chi è venuto? Saranno venuti degli ospiti storici, no? Io c'ero, l'abbiamo proiettato tra l'altro in loop per 4 ore. Wow! Perché l'abbiamo proiettato in occasione dell'apertura di questo museo dedicato al Cocorico, che ha riportato diciamo un po' lo spirito e l'attitudine degli anni 90 ad oggi, quindi arte alle pareti, quindi performance, il nostro documentario in loop per 4 ore in una sala tra l'altro sempre gremita, e un'operazione veramente molto interessante che rispetto a quello che dicevamo prima mi ha anche riempito di speranza, perché è stata un'esperienza culturale con ragazzi giovani e anche con la generazione degli anni 90, e con una proposta che non è la consueta proposta della discoteca. Ma dunque questo museo del Cocorico è all'interno del Cocorico ed è fisso così? Cioè... Alcune cose sì. Ok. Alcune cose no, questo è positivo. Cioè, sì, per il resto. Anche se è un'operazione forse un po' nostalgica, però penso che abbia una sua valenza interessante. La cosa interessante infatti è che è un'operazione in parte nostalgica, ma in realtà è aggiornata. Ok, quindi per cui c'è un curatore, che ci saranno mostre temporanee? Questo non lo so. Ok. Questo non lo so e non voglio... Dovremo indagare, perché naturalmente Coxo Spaziale si occupa di quello che succede nel mondo dell'arte contemporanea tendenzialmente attorno a Bologna, perché il nostro segnale finisce a Castel San Pietro e dall'altra parte a Castelvetro, o comunque insomma non molto lontano da qui. Voi venite dalla Romagna, ma come sapete appunto si può ascoltare Radio Città Fujiko anche online, però mi mancano le notizie del museo del Cocorico, ma adesso mi informo e poi ne parleremo nelle prossime puntate. E dunque com'è andata la serata? Quindi la serata è andata molto bene, c'era il principe Maurice, che è un po' un'icona, un simbolo e forse qualcosa di più, siamo a livelli di eroismo, okay, oltre che di erotismo per certi aspetti del Cocorico, e quindi è stata una serata molto felice, e come dicevo lo è stata anche in relazione al fatto che è parso potersi ritrovare un certo tipo di spirito e di attitudine. E il Cocorico oggi esiste ancora, non accade quello che accadeva negli anni 90, non è arte in movimento come lo era negli anni 90, perché le performance degli anni 90 erano fatte da alcuni dei più importanti teatri di ricerca della regione, non solo della regione, da Silvia Camporesi a Mask, alla Raffaello Sanzio, ma erano anche installazioni artistiche di rilievo e di particolare interesse, anche la musica veniva trattata spesso e volentieri in quei termini lì. Però ecco, questa serata è stata una possibilità, una finestra che ha unito diciamo l'aria degli anni 90 e l'ha mischiata con quella della contemporaneità. Super. E se andate su www.cocoricotapes.com trovate tutto sul vostro documentario, ma c'è scritto anche che avete vinto dei premi. Cosa abbiamo vinto? Cosa avete vinto? Bisogna andarci a guardare. No, sbaglio? Sì, comunque il film è stato presentato in anteprima, diciamo, mondiale ovviamente, al Pesaro Film Festival. Okay. È stato quindi più di un anno fa. Esatto. E quello ha abbastanza avanzato il film. Comunque il Pesaro sono stati veramente con noi, veramente, non so come dire, ci hanno proprio accolto a braccia aperte e ci ha aiutato molto il festival. Dal di lì poi siamo arrivati subito dopo Ortigia, c'è stato. Sì, dopo c'è stato Ortigia. Ortigia abbiamo vinto con miglior documentario. Super. poi altri festival che non ci sono stati. Adesso e comunque il film continua ad andare, nelle sale. Ho visto che sul sito che c'è una serie di appuntamenti in giro per varie regioni, varie città. Sì, poi sul sito chiaramente lo aggiorniamo quotidianamente, quando entra una data nuova viene aggiornata, per cui stiamo facendo un lavoro anche lì abbastanza grosso di distribuzione veramente indipendente, quindi chiamare, per fortuna qualcuno ci chiama anche per provare a proiettarlo. È tuttora, dovrebbe essere ancora su My Movies. Esatto, sì, no, infatti anche qualcosa. Quello vi volevo dire, che sì, è anche visionabile online. Esatto, esatto. Tra poco sarà anche su Chili, da agosto, giusto, da inizio agosto sarà anche su Chili. Super. Quindi dunque state guadagnando dei gran soldi con questo documentario. No, il mondo del documentario non è fatto per chi vuole arricchirsi. Anzi, rispetto a questo, secondo me è importante anche sottolineare una cosa: noi siamo riusciti a completare la post-produzione di questo documentario grazie a una campagna di crowdfunding che è fatta dal basso. Super. Abbiamo avuto decine e decine di sottoscrittori, e alcuni dei quali peraltro ci hanno anche fornito del materiale che poi abbiamo utilizzato all'interno del film, ed è stata una delle campagne di crowdfunding e di finanziamento dal basso più riuscite dell'anno scorso. Per noi questo è un motivo d'orgoglio, perché siamo due piccole case di produzione indipendenti, e garantirci la nostra indipendenza anche attraverso questo tipo di finanziamento dal basso, di finanziamento popolare, per noi è stato molto importante, e abbiamo continuato sulla stessa linea facendoci anche l'autodistribuzione, quindi abbiamo fatto una distribuzione indipendente che fosse fuori dalle logiche consuete di mercato, e un po' volutamente, un po' perché è chiaro, un documentario di un'ora su Cocoricò non è la cosa più semplice da distribuire in sala, però abbiamo trovato un circuito di sale che ci ha accolto, e il documentario è andato bene, il documentario è stato apprezzato e soprattutto è stato discusso, che per noi era una cosa molto importante. Cioè, esattamente come, diciamo, il Cocoricò percuoteva la mente, abbiamo cercato di fare qualcosa che non lasciasse indifferenti. Cioè, l'hai visto in parte, è certo, un'esperienza anche, come dire, coinvolgente, emozionale, sensoriale anche. Sensoriale, abbiamo cercato di provare a riproporre qualcosa che non può essere raccontato, sia quello che era una serata al Cocoricò negli anni 90. No, in effetti mi sono sentito, anzi ero contento di avere una buona scusa, perché ero fuori dall'Italia per tutti gli anni 90, però un po' mi sono sentito in colpa di non essere mai stato al Cocoricò in una di queste serate fantastiche, in cui appunto tutte a tema, con, che ne so, tema futuristi, tutti vestiti da futuristi, gran casino eccetera, con musica futurista eccetera eccetera. Sì, aveva, cioè, mi è sembrato mi fa piacere per quelli che hanno avuto quell'esperienza, assolutamente. Scusa, entro un attimo, siccome Matteo ha ricordato il crowdfunding, credo sia doveroso ricordare anche che ne abbiamo avuto una bella fetta di soldi anche dalla Film Commission, che ci ha finanziato. Ottimo. Film Commission Emilia Romagna, perché in realtà senza il loro aiuto non l'avremmo fatto veramente. Per cui chiaramente la crowdfunding ci ha aiutato a concluderlo, ma senza la Film Commission non avremmo neanche iniziato. Per cui veramente sono stati molto generosi con noi. Poi magari anche lungimiranti, perché alla fine il film funziona molto bene, però ci hanno aiutato veramente tanto. Da questo punto di vista abbiamo una Film Commission, comunque, adesso detto senza piaggeria, che è una delle migliori in Italia, e che funziona bene, che insomma, rispetto alla quale nulla si può dire, se non ringraziare. Aggiungo rispetto a questo una piccola nota polemica, adesso sicuramente la nostra produttrice esecutiva mi ucciderà quando ci rivedremo. Però girano voci su una bozza rispetto al nuovo decreto ministeriale, per quanto concerne i finanziamenti al cinema italiano. Ecco, se dovessero essere veritiere le voci che girano, il 70-80% del cinema italiano morirebbe e il 90% del cinema italiano indipendente non riuscirebbe più a fare cinema. Ho capito. Adesso stai parlando con uno Stefano peggiore, perché devi sapere che qui a Radio Città Fujiko c'è uno Stefano migliore, appunto, che si chiama Stefano Migliore, che si occupa di cinema, per cui io non so assolutamente nulla, non so nemmeno che cosa possa essere la Film Commission, per cui insomma va bene così, però cioè, mi fa piacere che ne hai parlato. non mi fa piacere sentire queste notizie, naturalmente, perché già il mondo dell'arte contemporanea è un disastro in questo paese. Se anche il mondo del cinema fa la stessa fine, dopodiché ci tocca di emigrare davvero tutti. Anche perché, ripeto, se queste voci non verificate, non confermate, dovessero in realtà diventare vere, diventa una forma di controllo molto capillare sulla produzione culturale cinematografica italiana. Detto questo, vi devo interrompere perché abbiamo una rubrica che si chiama L'angolo della menzione. Ovvero, che cosa succede a Bologna questa settimana? Dall'1 luglio al 9 agosto, Bologna Musei si racconta con Musei Sotto le Stelle, appuntamenti che precedono le proiezioni gratuite dei film in Piazza Maggiore di Sotto le Stelle del Cinema. Stasera alle 21.30, per cui avete tempo di finire di ascoltare Coxo Spaziale e poi scappare in Piazza Maggiore, se il tempo non ce lo permette, abbiamo Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo, e Marinella Paderni, curatrice e docente, che presentano la mostra Robert Kuzmirowski, come cavolo si chiama sta mostra? Persoanomalia, nella sala delle ciminiere, che appunto è al Mambo fino al 29 settembre. A seguire il film Omicidio a luci rosse di Brian De Palma. Tutto questo in Piazza Maggiore a Bologna dalle 21.30. Poi domani 2 luglio alle ore 21 abbiamo Die Angst, Francesco Giuseppe Di Stefano live al 5C Lab di Vicolo De Facchini. La serata è parte del Festival Turbo pensata da Serendipo. Il concerto doveva essere oggi, ma a causa del diluvio universale che abbiamo avuto è stato spostato a domani e dunque lo possiamo menzionare. Questo al 5C Lab in Vicolo De Facchini domani 2 luglio alle ore 21. Poi giovedì 4 luglio dalle ore 14.30 quest'anno Z Festival inaugura il suo sesto anno con una nuova edizione dal 3 al 7 luglio e con diverse proposte di danza su schermo in VR, virtual reality. Per l'occasione Z torna anche negli spazi del Mambo dal 4 al 7 luglio con un'esperienza di danza virtual reality firmata dalla Tom Dale Company e con un ospite d'eccezione, lo stesso Tom Dale, che il 4 luglio illustrerà di persona l'opera presentata. Surge. Questo al foyer del Mambo alle ore 14.30 fino alle 20 abbiamo Surge in Virtual Reality di Tom Dale Company e dalle 18.30 alle 19.15 il talk con Tom Dale stesso. È un incontro pubblico e dopodiché ci sarà di nuovo il 5, 6, 7 luglio sempre dalle 14.30 alle 19 il Surge VR di Tom Dale. L'ingresso è gratuito e tutto questo è al Mambo in via Dominzoni 13 a Bologna. Sempre giovedì 4 luglio dalle 18.30 abbiamo MAG, magazzino Art Gaze, che presenta la classica mostra estiva. Tutti gli anni la stessa storia, arriva l'estate e le gallerie vanno in paranoia. Il caldo soffocante, le città svuotate, agosto, inesorabilmente l'affitto da pagare. Così arriva, puntuale come le tasse, la collettivona che si spera dia più visibilità, ma soprattutto impenni le vendite nei mesi più atroci dell'anno. Così il magazzino Art Gaze ha aperto i propri magazzini pieni di meraviglia e per l'occasione appunto avranno una new entry, l'irriverente artista Enrico Pantani. Le opere inedite di Matteo Sbaragli, ora libero dall'esclusiva con Opera Gallery, con una scultura enorme che forse non entrerà dalla porta, dice Alessandra, che abbiamo avuto qui ospite la settimana scorsa. Poi abbiamo le microtele di Nicola Montalbini e il super emergente Giovanni Cerutti, protagonista inaspettato di Arte Fiera. Qua perché mi è finita la musica di sottofondo? Ah no, eccola lì. In mostra anche Margherita Paoletti, Patrizia Novello e Giulio Alvigini, ma a rotazione anche molti altri fino a metà settembre. Per gli amanti dell'arte urbana, Bonobo Labo presenterà invece le opere di Bianco Shock, Millo e Zedi. Tutto questo a MAG, giovedì alle 18.30, a MAG, magazzino arte contemporanea, in via Testoni 5D a Bologna. Ed eccoci qua. E basta, finito per questa settimana, questo è quanto. Dopodiché naturalmente per gli amanti del cinema come voi c'è tutto il programma del cinema sotto le stelle, e cosa che io alla fine non riesco mai a vedere niente, ma come dico sempre non sono un gran cinefilo. Cinefilo. Posso aggiungere un appuntamento? Assolutamente, aggiungi un appuntamento, lo scrivo al volo e me lo, perché domani su coxospaziale.blogspot.com troverete scritto tutto questo. Raccontami tutto, che succede? Allora, succede che domani alle 21.30 a San Lazzaro di Savena, all'Arena Understars che fa il cinema Galliera, c'è Cocorico Tapes. Ah, wow! Ah, questo così me lo aggiungi così senza. Perché la vostra detta stampa non me l'ha raccontato, ma fantastico. Sì, perché doveva essere la sorpresa. Sì, domani sera. Ok, e sul sito cocoricotapes.com lo troviamo? No, non lo troviamo, perché altrimenti me ne sarei accorto oggi pomeriggio. Quindi lo aggiorno al volo. Lo devi aggiornare al volo, così posso mettere il link che appunto troverete domani domattina su Coxo Spaziale, e dunque domani sera alle 21.30 assolutamente chi ha sentito questa puntata e si è incuriosito del Cocorico Tapes, assolutamente che vada a San Lazzaro di Savena appunto ad ascoltare la musica di Matteo Valicelli, che nel frattempo è riapparsa, perché io qui sono un po' distratto con la console, ma andiamo tutti a rivedere Cocorico Tapes a San Lazzaro di Savena. Dove hai detto che è? Te lo ricordi? Arena Underground. Sì, no, scusami, Arena Understars. Bello. È quella che. Che significa che è fuori, sotto le stelle. Immagino di sì, non, certo. Devo ammettere che non la conosco, so che è del cinema Galliera. Ok, sì, perché quelli di San Lazzaro di solito non vengono fino qua a Radio Città Fucico, no, naturalmente scherzo. A San Lazzaro, fra l'altro, Radio Città Fucico si sente benissimo. Aspettate un attimo che devo aprire la porta. Ho lasciato tutti i microfoni aperti, per cui abbiamo i nostri amici di Panta 80 che si sono dimenticati di nuovo le chiavi. Spero che siano riusciti ad entrare, adesso lo scopriremo fra un minuto. E anche perché appunto il tempo, ahimè, sta quasi per finire. Cos'altro mi dovete raccontare di Cocorico? No, anzi, più che di Cocorico Tapes, di cui abbiamo detto tante cose, raccontatemi di voi due. Come si fa a fare cinema? Cioè, da dove venite? Come si fa a fare cinema in Italia? Domandona. Cioè, in realtà io personalmente ho una piccola società da qualche annetto, un paio d'anni, che appunto è appena nata, e questo è il primo film che riusciamo a fare. Che si chiama La Furia Film. Che si chiama La Furia Film. Okay. E io personalmente ormai lavoro nel cinema da 20 anni, diciamo 20, mm-hmm. forse un po' di più. E sempre lavorato nel cinema romano, comunque con produzioni romane, però c'è sempre stata l'idea, la voglia di provare a portare un po' di cinema appunto in casa, in Romagna, perché Fellini è dovuto andare a Roma a fare Amarcord, però era un romagnolo. Era un romagnolo, assolutamente. E ci piaceva questa cosa qui, per cui da qualche anno è nata questa società, e vediamo se ce lo permetteranno di riuscire a fare qualcosa anche noi. Però appunto nel frattempo, chiaramente, per lavorare, per mangiare, lavoro in cinema, faccio la fotografia direttamente per altre mm-hmm. produzioni, per altri film, progetti, documentari, dipende. Però appunto l'idea è quella di provare a portare qualcosa anche in Emilia Romagna, e ripeto, anche grazie alla Film Commission ultimamente veramente sembra che qualcosa si muova, anzi si muove, diciamo, per cui io sono abbastanza contento di intanto riuscire a lavorare qui in zona. E Matteo invece? Io 14 anni fa, insieme ad altre persone, ho fondato una piccola casa di produzione che si chiama Sunset, che è coproduttrice di Cocorico Tapes, mm-hmm. e la vocazione era quella documentaristica a sfondo sociale e antropologico, e in questi 14-15 anni siamo piano piano cresciuti, siamo una casa di produzione anomala perché siamo anche un'agenzia di comunicazione, e perché con il cinema indipendente, solo col cinema indipendente si fa fatica a campare. Si mangia poco, ho capito. E quindi mm-hmm. ci occupiamo anche di cose appunto relative alla comunicazione. Abbiamo progressivamente nel tempo affinato le nostre competenze, le nostre qualità. Abbiamo fatto un lungometraggio a sfruttamento cinematografico che si chiama Solo cose belle, di cui Luca era direttore della fotografia e io ero sempre il cosceneggiatore. E poi personalmente insegnavo in università a Forlì e il cinema è sempre stata una passione, la scrittura è sempre stata una passione e in qualche modo le ho messe insieme. Sei riuscito a metterle insieme e complimenti a te che ce l'hai fatta, insomma. Non è facile vivere delle proprie passioni, questo lo sappiamo tutti. Ed è il motivo per cui io sono qui a fare radio, no, scherzo, perché sai, si guadagna tantissimo a fare i programmi di Radio Città Fujiko. Fantastico, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qua. Io naturalmente invito i nostri ascoltatori a non mancare di andare a vedere domani appunto Cocorico Tapes a San Lazzaro, e trovate tutto su www.cocoricotapes.com. È un documentario da non perdere, per cui assolutamente, e non mancate di andarlo a vedere. E come al solito vi saluto, io ero Stefano W. Pasquini, avevo Matteo Lolletti e Luca Nervegna con me appunto a raccontare di Cocorico Tapes. Questo era Coxo Spaziale e come al solito vi saluto con le parole, questa volta abbastanza errate, del nostro direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che fra l'altro la sigla è un pezzo che è uscito oggi, che si intitola Sapone, il nuovo singolo di Danilo Ruggero, e ringraziamo Agnese di Pearl Press che ce l'ha spedito e che ci ascoltiamo così. Ci sentiamo al solito lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. Quanti sprechi di sapone, e quanti spargimenti di parole, per riuscire a pulirsi il cuore, per riuscire a lavarsi bene, per potersi alleggerire in queste notti silenziose. Non potresti stare in silenzio, non dovresti stare in silenzio, non potresti stare. Scriverò chilometri di carta questa sera, mentre il letto mi sembra un'astronave. Però intanto mi preparo gli imprecisanti buoni per benedirmi pensieri migliori. Per partorire versi universali bisogna scavarsi la schiena, scavarla tutta fino in fondo con le mani, e mi stropicci i capelli per far scappare tutte le api e rimanere solo fisso a guardare il vuoto di questa stanza. E per riprendere i ricordi felici apro l'acqua della doccia, bagno bene la testa e tu mia cara, per il momento non ci sei più. E quanti sprechi di sapone, e quanti spargimenti di parole, per riuscire a pulirsi il cuore, e per riuscire a lavarsi bene, e per potersi alleggerire in queste notti silenziose. Non potresti stare in silenzio, non dovresti stare in silenzio, non potresti stare. E se bastasse bagnarsi la testa per chiudere i cassetti, imparerei a quel punto a stare in apnea tutta la vita, mio caro pesce rosso. Invece sbatto continuamente il piede sinistro negli angoli, imprecando contro un dio in cui a tratti confido poco, altro che santi, e forse farà niente, ma spiego. È un appuntamento particolare quello tra me, il mio ego e la mia penna, che nascondo sempre troppo bene la volta prima. E quanti pensieri avrò perso dunque solo per il fatto che a Tetris nella mia testa non sono mai stato bravo, ma chiarifico, io non sarò.